Vangelo di San Marco, capitolo 10. Poi levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava, e dei farisei, accostatesi, gli domandarono tentandolo: «E gli è lecito ad un marito di mandar via alla moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio». E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio. È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vieppiù stupivano, dicendo fra loro: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardateli, disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito». E Gesù, rispondendo: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano eran presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i dodici, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni egli risusciterà. E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che volete che io vi faccia?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel che chiedete? Potete voi bere il calice che io bevo, o esser battezzati del battesimo del quale io son battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo, e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato». E i dodici, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni, ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Poi vennero in Gerico, e come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con gran moltitudine, il figliuolo di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama!» E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via.